Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rassegna stampa della stampa periodica, dei periodici, dei settimanali, dei mensili italiani, non solo italiani, che ogni sabato, come sapete, teniamo qui a Radio 24. Cominciamo con una di quelle domande fondamentali. Secondo voi c'è un po' troppa musica in giro? Ve lo chiedo perché se lo chiede Umberto Eco sulla bustina di Minerva, che è, come sapete, la sua rubrica sull'Espresso, e lui dice c'è musica e musica, e spiega un sommario che corre dalla rubrica: ci perseguita negli aeroporti, nei bar, nei ristoranti, negli ascensori, in un orribile stile New Age negli studi medici, nei suoni dei telefonini che sui treni a ogni istante suonano. E quindi, secondo questa premessa, sembrerebbe di capire, Umberto Eco sta dicendo c'è un po' troppa musica in giro, ed effettivamente l'impressione di essere un po' inseguiti dalla musica c'è all'elenco. Volendo guardare, mancherebbero i supermercati, i negozi d'abbigliamento, sono tutti luoghi dove abbiamo esperienza di essere circondati da musica diffusa più o meno gradevole. L'attacco della bustina è molto gradevole pure, si cita sovente come esempio di scarsa sensibilità musicale, scrive Eco, l'opinione di Immanuel Kant, filosofo che considerava la musica inferiore ad arti come la pittura, perché se il valore di un'arte sta nel nutrimento intellettuale che ci procura, la musica, che gioca semplicemente con le sensazioni, ha il posto più basso tra le belle arti. Questo il riassunto che Umberto Eco dà del pensiero di Kant. Aggiunge: inoltre è inerente, riprende citando Kant, alla musica una certa mancanza di urbanità. Il fatto che essa diffonda il suo influsso, principalmente per come sono fatti i suoi strumenti, più lontano di quanto si vorrebbe, e in tal modo, per così dire, imponga se stessa. Questa è un po' la frase di Kant da cui Eco parte per il suo ragionamento, e dice: valutare esteticamente la musica perché disturba i vicini è un po' come negare il valore dell'Aida se viene suonata nell'Arena di Verona, imponendosi all'ascolto involontario di chi abita nei dintorni. E però, Verdi a parte, io che abito in una zona di Milano dove a ogni pubblica festività si organizzano concerti rock che durano sino a tarda notte, comincio a pensare che Kant non avesse del tutto torto. A questo punto Eco però aggiunge un pensiero che deriva da Valerio Magrelli, un articolo di Valerio Magrelli apparso su Nuovi Argomenti. Dice: c'è una musica che si sceglie, spiega Magrelli, ripreso da Eco, è una che ci viene imposta dagli altri. Si tratta di due fenomeni antitetici. Il primo rappresenta uno dei più squisiti alimenti concessi alla specie umana, la musica appunto che si sceglie, mentre il secondo è un semplice reato. Uno è un dono prescelto, l'altro è una punizione subita. E annota all'inizio del suo diario Magrelli che ci sono due materiali il cui abuso sta rovinando l'ecologia del pianeta: plastica e musica. Insomma, troppa musica in giro, o comunque troppa musica imposta, sembrerebbe di capire. Qual è la conclusione che ne trae Eco nella sua rubrica? Dice: beh, in realtà dobbiamo andare a distinguere qual è l'utilizzo attuale della musica. Dice: una volta si decideva di ascoltare musica, si accendeva la radio, operazione che richiedeva impegno manuale, o si sceglieva un disco, operazione che richiedeva anche una riflessione intellettuale, una scelta di gusto, oppure ci si vestiva e si andava a un concerto dove si esercitava la propria capacità di discriminazione tra buona e modesta esecuzione. Ora, dice, più che assorbire musica sia sui computer sia anche nei concerti, sembra che molti utenti della musica assorbano rumore, ma in treno l'auricolare ce l'hanno anche giovani e adulti che diventano così incapaci, scrive Eco, di leggere il giornale o guardare il paesaggio. Le ultime righe: se su ogni cartello pubblicitario fosse ripetuta la Gioconda diventerebbe brutta e ossessiva, ma, e allora aveva ragione Kant, il nostro intelletto se ne accorgerebbe e protesteremmo. Con la musica invece no, ormai si vive come in un bagno amniotico. Come recuperare il dono della sordità? Non so come sia possibile recuperare il dono della sordità. Certo che l'avanzata della tecnologia, quella appunto che ci permette anche di avere una quantità di musica disponibile oltre ogni limite, addirittura ci sono delle collezioni personali che eccedono la capacità di ascolto, il tempo a disposizione, diciamo, in una normale vita umana. La tecnologia, dicevo, ci continua a fornire nuove occasioni di sentire musica, di sfruttare la musica, di ascoltare musica. Ma non è l'unica cosa che sta cambiando. Ho visto su Jack, che è un mensile dedicato alla tecnologia, una innovazione che mi ha colpito. Non sapevo infatti che stanno arrivando i navigatori dedicati ai pedoni. Sono dei navigatori che sfidano la comodità dei cellulari con il GPS, perché come sapete molti cellulari dispongono anche della funzione delle mappe, quindi possono essere utilizzati anche da un pedone, ma adesso si sta addirittura pensando di dotare i pedoni del navigatore. La cosa mi ha colpito perché sono degli utilizzi che, come spiega appunto Jack, scendono dall'auto per guidarti anche quando vai a piedi. Quindi una novità per l'estate. Si fanno addirittura dei confronti tra vari prodotti, alcuni dei maggiori produttori di navigatori conosciuti per auto o per moto, che stanno appunto presentandosi sul mercato con delle mappe che sono in grado anche di avvertire il pedone se nella sua camminata sta per caso imboccando la strada sbagliata. Quindi diciamo che il fatto di essere guidati assolutamente dalla tecnologia, oltre che l'essere accompagnati costantemente dalla musica, sta diventando un leitmotiv, un motivo ricorrente. E invece c'è qualche cosa che sta andando in crisi proprio per la tecnologia, non lo direste, ma è il latino. Chi può avere problemi con il latino? Lo apprendiamo da Panorama. Il Papa è in crisi con il latino. Perché? Perché per la sua enciclica c'è un problema di traduzione. Ve lo leggo da Panorama, così come l'ho letto ieri. Galeotto fu il latino. La pubblicazione della Caritas in Veritate, l'attesa enciclica economica di Benedetto XVI, in preparazione da oltre 2 anni, rischia di subire l'ennesimo ritardo a causa della traduzione nella lingua più amata da Ratzinger. Il documento è stato infatti redatto in italiano e affidato a un gruppo di esperti per la versione in latino, che è la lingua ufficiale del Vaticano. Tuttavia non è stato agevole tradurre i termini più moderni del gergo economico e finanziario presenti nel testo. Nel testo appunto ci sono termini come globalizzazione, borsa, borsa valori nel senso, prodotti finanziari derivati, paradisi fiscali. I traduttori hanno quindi fatto ricorso ai 2 volumi del Lexicon Recentis Latinitatis, che è il dizionario appunto di neologismi latini che si occupa di ammodernare quello che Cicerone non poteva conoscere né poteva avere parole per pronunciare, un dizionario che contiene oltre 15.000 parole tratte dal linguaggio moderno, ma non tutti i termini necessari erano presenti nel dizionario e quindi sono stati creati appositamente. E allora, visto che parliamo di una crisi, andiamo per una sorta di continuità a un'altra crisi che ci viene sempre riferita da Panorama, è la crisi del bingo, delle sale bingo. Come sapete, una decina di anni fa era stato fatto un grosso investimento, prima normativo e poi anche ovviamente dai gestori, per aprire queste sale bingo, che però, a quanto riferisce Daniele Martini su Panorama da ieri in edicola, se la passano tutt'altro che bene. Infatti si spiega il bingo dai numeri del proprio fallimento: su 800 sale gioco soltanto 227 sono rimaste aperte. E nell'ultimo anno e mezzo ne sono state chiuse 120. La stranezza, se volete, lo riferisce poi anche Martini nel corpo del suo articolo, è che in questo momento invece i giochi hanno una tendenza sempre crescente. Se c'è una crisi dei casinò, dei punti di gioco più antichi, però invece la voglia di scommettere, la voglia di tentare la sorte con i gratta e vinci o con altre lotterie sembra non conoscere invece flessioni. Spiega il sommario che accompagna l'articolo di Martini: meno 100 milioni di euro negli ultimi 4 mesi del 2009, 1.500 persone licenziate, purtroppo è in crisi nera la tombola di Stato, che solo le videolotterie potrebbero salvare. Dice bingo addio. Tra l'altro, un'altra stranezza riferita da Martini quando il governo D'Alema, all'epoca, quindi una decina di anni fa, lanciò il bingo, era sicuro di poter replicare in Italia il successo ottenuto dal bingo in Spagna e in molti paesi dell'America Latina. Ma in realtà questo non è avvenuto, le cifre del declino sono impressionanti, leggo sempre da Panorama. Nell'ultimo anno e mezzo sono state chiuse 120 sale, il numero di dipendenti è stato ridotto di un terzo, sono attualmente 10.000. Solo negli ultimi 4 mesi del 2009 gli incassi sono diminuiti del 14% rispetto al 2008 e sono previsti, ohimè, altri 2.000 licenziamenti entro la fine dell'anno. I gestori cominciano a pensare seriamente di dare forfè rinunciando al rinnovo delle concessioni, parecchie delle quali in scadenza proprio in questi mesi. Molti del resto, spiega sempre Martini, non hanno neppure i soldi per il rinnovo dei permessi. Dopo aver investito 2 milioni di euro in media negli anni passati, avrebbero bisogno di altri euro per le come fideiussioni dalle banche per farsi riassegnare la concessione dai monopoli. Però le banche, a quanto appunto spiega Martini su Panorama, non hanno molta voglia di investire su questo settore né quindi di aiutare in particolare i gestori nel rinnovo delle loro concessioni. Magazine 24. E bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando nella parte precedente di tecnologia, di innovazioni tecnologiche. Su Focus di questo mese c'è un bel servizio, una bella inchiesta che ci racconta come funziona internet, nel senso non come funziona come esperienza che ormai credo facciamo in molti dall'ufficio o da casa, ma proprio come funziona che una nostra richiesta, ad esempio per una ricerca, viene trasferita all'utente a cui è indirizzata. E si fa proprio l'esempio, si spiega passo passo quale percorso segue il nostro operato sulla tastiera per arrivare, che so, a ordinare un libro negli Stati Uniti. L'inchiesta è molto ricca di dati e fotografie e spiega praticamente che si possono fare con internet di fatto Milano-Seattle in mezzo secondo. Mostra proprio il cuore del web, quindi è un come funziona dedicato al come funziona meccanico, verrebbe da dire, di internet, ma sarebbe più corretto digitale. E poi si spiegano anche altre cose, ad esempio come sono collocati, dove sono collocati i dati, i punti di interscambio più importanti per i trasferimenti internazionali e intercontinentali dei dati. C'è un dato che mi ha colpito: secondo uno studio dello Swiss Federal Institute of Technology, che è un istituto di tecnologia della Svizzera, un eventuale blackout di internet per una settimana in questo momento potrebbe costare a un paese l'1% del suo prodotto interno lordo. Quindi internet ormai è tutt'altro che un passatempo, è assolutamente un modo di operare connesso all'economia. Ce lo racconta appunto con dovizia di particolare, ci racconta come funziona Focus su questo numero. Ne approfitto per dirvi che tra l'altro con il Sole 24 Ore da lunedì trovate un altro come funziona che può essere interessante, che è il nuovo processo civile, un instant book, un piccolo volume insomma, che è stato fatto in tempi molto rapidi dalla redazione del Sole 24 Ore, proprio per spiegare come funziona invece il nuovo processo civile, il che significa che cosa cambia dal 4 di luglio, quindi da settimana prossima, per andare in giudizio su una lite di condominio oppure per le liti che riguardano gli incidenti stradali. Quindi cose molto molto diffuse, molto importanti, riguardano i giudici di pace, il modo in cui si cerca di dare velocità alla giustizia civile. Come sapete, se dovessimo fare un parallelo con l'inchiesta di Focus, la giustizia civile in Italia funziona decisamente a rilento, non fa Milano-Seattle ma neanche Milano-Milano in mezzo secondo, c'è un arretrato molto pesante, e questa riforma che debutterà da settimana prossima serve proprio a cercare di dare un po' di spinta, far recuperare un po' di velocità e di funzionamento alla nostra giustizia civile. Insieme il Sole 24 Ore da lunedì vi presenterà anche, ed è un'offerta più riservata agli addetti ai lavori, il nuovo codice di procedura civile, appunto dopo le modifiche che entrano in vigore dal 4 luglio. Cambiamo decisamente argomento, prendiamo Famiglia Cristiana di questa settimana. a un titolo un po' inatteso nella rubrica di Antonio Mazzi. Antonio Mazzi titola infatti "C'è il baby boom, lo sapevate?" Dovrebbe da dire no, non lo sapevamo, però riferisce Mazzi: "Anni guarda, negli ospedali dell'Interland milanese le culle sono tutte esaurite", e dice: "Per arrivare al caso dell'ospedale di Magenta, che nel ponte del 1° giugno si è visto obbligato a dare forfè". Insomma, c'è, scrive Don Antonio Mazzi, un inatteso boom di mamme. Si sta ripetendo, nella disattenzione di molti, il baby boom degli anni 80. Allora l'aumento delle nascite fu interpretato come frutto di un rinnovato benessere economico, mentre i casi della nuova esplosione devono essere letti alla luce di una presa di coscienza dei trentenni. Si chiede Mazzi ancora una volta: i figli saranno migliori dei padri e le figlie migliori delle madri? D'altra parte, insomma, quello che sembra essere una tendenza dei reparti maternità è confermata, riferisce sempre Antonio Mazzi, dai rivenditori di prodotti per bambini nei negozi prima man. Dichiarano che il baby boom non si fermerà. Abbiamo fatto tantissimi nuovi ordini, scrivono, spiegano Mazzi, questi signori, molti più del previsto. Alcuni articoli sono esauritissimi. E allora, visto che parliamo di figli, sempre su Famiglia Cristiana, ma in altra parte del settimanale, una vicenda che riguarda figli un po' più grandicelli, carte di credito e minorenni. Beh, in questo momento, in questo periodo, diciamo, parlare di debiti e di crediti non è semplice. Qual è l'evento che ha incuriosito Famiglia Cristiana? Il fatto che il Congresso americano abbia dichiarato guerra ai minorenni irresponsabili e, per tutelare i genitori, abbia limitato l'uso delle carte di credito per i teenager. Quindi parliamo della fascia, diciamo, tra i 12 anni, dai 12 anni in avanti. Il provvedimento, anche se non prevede un divieto assoluto di emettere carte per i minori di 18 anni, stabilisce una serie di casi in cui l'erogazione del credito viene rifiutata. Si chiede a Famiglia Cristiana e chiede ad un paio di esperti: è una misura giusta o è l'effetto di una mancata educazione all'uso del denaro di plastica? Rispondono Anna Oliviero Ferraris e Pietropolli Charmé, due psicologi. Secondo la Ferraris, la legge copre un vuoto educativo, però il problema è un altro, perché prima andrebbero educati i genitori, molti dei quali in realtà si comportano peggio degli adolescenti e spendono in maniera irresponsabile. Sul piano teorico, continua la Ferraris nella intervista raccolta da Antonio San Francesco su Famiglia Cristiana, l'educazione in famiglia all'uso corretto del denaro è decisamente meglio, anche se questo richiede uno sforzo e tempi lunghi. Sul piano pratico, ammette la Ferraris, una legge del genere aiuta senz'altro, quantomeno a mettere dei paletti. Gustavo Pietropolli Charmé vede la questione da un punto di vista abbastanza simile. Dice: è un buon provvedimento perché aiuta a responsabilizzare soprattutto i genitori, mettendoli in guardia dal concedere troppi soldi ai figli. Dal punto di vista educativo è fondamentale, secondo Pietropolli Charmé, limitare e razionalizzare l'uso della carta di credito da parte dei minorenni, soprattutto perché il denaro di plastica genera una percezione molto diversa rispetto a quello contante, quindi occorre una maggiore attenzione quando si fanno degli acquisti. E chiudiamo con una terza segnalazione da Famiglia Cristiana, perché dovete sapere che è stata preparata la nuova edizione del dizionario della UTET dedicato ai cognomi d'Italia. Allora, il signor Rossi, spiega appunto Famiglia Cristiana, è sempre il cognome più diffuso. Bianchi non figura più tra i primi, ma l'opera, dizionario della UTET, appunto, indaga anche sulle etimologie. Si scopre tra l'altro che Berlusconi deriva dalla voce Berlusc, cioè vorrebbe dire strabico, però tanto per par condicio Veltroni deriva da Veltro, cioè levriero. Il Ravasi, che è presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, ha una etimologia del cognome più incerta, o da rapa o da ravaxe, che sarebbe rapace. Il ministro di istruzione Maria Stella Gelmini è una derivazione da Gelmo, che a sua volta veniva da Guglielmo. Una cosa interessante che si apprende da questo servizio di Ermanno Paccanini sul dizionario UTET è che oggi in Italia ci troviamo con circa 330.000 cognomi. È una varietà che non ha paragoni in Europa, se pensiamo che si passa dai 1.750 nomi di famiglia di base, con 15.000 voci circa, ai 35.000 cognomi, che danno però luogo a ben 60.000 varianti. E poi via via, insomma, ci sono le varie declinazioni possibili per i cognomi. Questo da Famiglia Cristiana di questa settimana. Un argomento che è molto presente nei settimanali di questa settimana è la vicenda francese sul velo che usano le donne, appunto, di religione musulmana. Ovviamente ne parla in lungo e in largo Nouvel Observateur. C'è anche però un breve riferimento dell'Economist, che forse è il più adatto, anche perché il nostro tempo è praticamente concluso per questa puntata, è il più adatto per riassumere la vicenda. Cioè, il problema è la scelta tra la libertà individuale o invece una sorta di coercizione di tipo politico. Su questa domanda, cioè su questo dissidio, si sta appunto dibattendo il presidente francese Nicolas Sarkozy, che vorrebbe impedire l'uso di questi veli troppo invadenti, come possono essere il burqa, e quindi impediscono anche la riconoscibilità delle persone. E in realtà però, come riferisce l'Economist, c'è anche il problema di un paese come la Francia, fortemente secolarizzato, che di principio proprio non ammette, ad esempio, gli studi religiosi nelle scuole di Stato. Con questa segnalazione il tempo a nostra disposizione si è concluso. Io ringrazio Pietro Lacorte per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'aiuto nel preparare questo programma. Alla prossima settimana.